hai toccato la tematica del giudice interno, che credo è una tematica che riguarda praticamente tutti nella nostra cultura. Siamo educati in una cultura del giudizio. Sì. Lo dice molto bene Rosenberg nel libro Parlare pace. E questa cultura del giudizio è nata già 8-10 mila anni fa, prima non c'era, pare, e la cultura del giudizio nasce con l'elite, con qualcuno che cerca di dominare un altro. Questa cultura del giudizio fa sì che il linguaggio dei bisogni e sentimenti venga relegato sullo sfondo, mentre si mette bene in evidenza il linguaggio delle etichette, delle diagnosi, delle definizioni, che è un modello tipicamente autoritario e che ha insita una grandissima prepotenza. Allora, quando le persone si autogiudicano, non sanno di commettere un crimine contro se stessi, come leader di sé, quando fanno così, si stanno trasformando in una specie di Hitler, di Mussolini, di Stalin. E se gli si chiede perché lo fanno, dice per migliorare. Ora, se c'è qualcosa che è priva di senso è proprio questo. Il giudizio ha sempre peggiorato le persone. E il giudizio, oltretutto, è del tutto irreale. Non riguarda la realtà, riguarda delle definizioni. E quindi un primo modo di smontare il giudizio è quello di metamodellare. Che significano le frasi che dice? Perché le frasi del giudice interno sono ipnotiche. Sono ipnotiche e non sono giudizi, ma sono pregiudizi non analizzati dalla ragione. Sono creati quando eravamo molto piccoli, sono pensieri automatici, e qui ci faccio il discorso che avevamo fatto prima, pensieri automatici agiscono anche senza che noi ci pensiamo, è un programma interno. Questo programma interno fa sì che produciamo determinate sostanze biochimiche, le quali poi attivano determinati pensieri, guarda caso su questi. Quindi si crea questo circuito. Per poterlo disattivare ci vuole vigilanza. Ci vuole vera vigilanza, vuol dire che io mi rendo conto che quando ho una sensazione negativa, per esempio di senso di colpa, vergogna, senso di inadeguatezza, insicurezza, depressione, sono tutti segnali evidentissimi che sto giudicando. Tutte le volte. Io aggiungerei, questo è quello che dice Rosenberg, aggiungerei ogni volta che pratichiamo un inquinante della mente sicuramente c'è il giudizio. Tutte le volte. E il giudizio mi toglie dalla realtà, perché isola un frammento, lo ingrandisce, lo toglie dal fiume della vita, in questo modo lo rende già irreale, dopodiché lo seziona in base a determinati schemi mentali e ne trae delle conclusioni che sono assolutamente aberranti. Su questo tema credo che non si insisterà mai abbastanza e adesso magari faremo qualcosa per cui nel nostro sito le persone quando si giudicano ci diranno su che cosa si giudicano e le insegneremo come si smontano questi giudizi. Penso proprio che siamo dei punti fondamentali, perché nel bene e nel male ce l'abbiamo tutti. La nostra è una cultura fondata su giudizi, anche la religione a cui siamo stati educati è una religione in cui c'è un Dio che premia, punisce, che utilizza i sensi di colpa, che si offende, e quindi siamo impregnati da bambini in questa cultura. Guarda caso, una cultura che ha prodotto tantissima sofferenza basata sull'oppressione. Ogni volta che parli del giudizio mi viene in mente una cosa che a me dicevano da bambina, e penso che più o meno, almeno nel mondo occidentale, abbiano detto a tutti, no? Quando si voleva far stare tranquilla o comunque facevo qualcosa, mi si diceva fai giudizio. Quindi la parola giudizio è anche veicolata, soprattutto nei bambini, come equivalente di essere bravi. E questo è una cosa, le prime volte che ne hai parlato in aula, mi è rimasta, ma pensa questa roba quanto è. E c'è una parte di me che è d'accordo con la nonna che diceva fai giudizio. Sì, bravo. È impregnata molto profondamente, c'è proprio questa equivalenza. Giudizio vuol dire bravura, e quindi se tu ti giudichi stai facendo una cosa buona, cioè è difficile lasciarlo andare questo concetto. È molto radicato. Anche perché qual è il problema? È che è vero che possiamo comportarci bene o male, non è che è sbagliato questo. Il problema è che di solito chi ci dice come ci dobbiamo comportare non è una autorità ragionevole, è irrazionale. Mm-hmm. Ci sta dicendo delle cose che sono delle balle. Sì, sì, certo, tipo cioè fastidio. Sono forme di oppressione, sì. Ecco, quindi non c'è sincerità. A questi punti che cosa succede? Che scatta naturalmente la ribellione, perché non è credibile che l'autorità. Le autorità credibili sono quelle che sono esempio di ciò che dicono. Allora, allora c'è coerenza e allora il bambino che riceve questo Certo. viene irradiato di una qualità dell'essere che lui respira. Invece l'autorità irrazionale cosa fa? Dice una cosa mentre ne fa esattamente il contrario. Dice che devi comportarti bene mentre l'autorità si comporta male in primo luogo col bambino, giudicando. E quindi questa è la base del doppio legame originario a cui tutti noi siamo stati educati, l'educazione autoritaria che ancora c'è. Che poi ci portiamo dentro la cosa Sì, peggiore, poi viene perché dopo. cioè, siccome introiettiamo la parte del ribelle che dice eh no, non va bene, ma introiettiamo anche la parte del giudizio, quindi dentro noi continua a succedere costantemente questo. C'è una parte si ribella e una parte dice no, devi fare il bravo. E come stiamo Esatto, male? questa è la danza dell'oppressore e del ribelle. Per sciogliere il ribelle bisogna in primo luogo sciogliere l'oppressore, lasciare Questo è andare. proprio Prima non fondamentale può da. andarsene il ribelle se non scioglie Sì. l'oppressore. Perché se no il ribelle serve a mantenerti in vita, ad avere un'identità. Se togli il ribelle non ti rimane che diventare uno gerbino su cui tutti calpestano. Bisogna togliere l'oppressore. Sì. L'oppressore bisogna però vederlo come tale, riconoscerlo, e di qui è importante la consapevolezza, sviluppare consapevolezza. Okay?